Messer Domine Dio, dopo tant'anni, mosso a pietà dei nostri lunghi affanni, aperto su nel cielo un finestrino, fe capolino, e con un colpo d'occhio da maestro scorse il lato sinistro e il lato destro, restò confuso e si rivolse a Pietro, che avevi dietro, e disse: «O Pietro, o ch'io non son più Dio, o che è venuto me l'ingegno mio, affaccia del rimira l'universo, tempo perso!» E Pietro, messo il capo al finestrino, disse: «Signor, cos'è quel burattino che in Roma vedo di gran pompa ornato e imbavagliato?» E sorridendo a lui disse: «Signore, Pietro, Pietro è il tuo gran successore, gli hanno il capo, le mani e i piè legati, i potentati, e con un filo a vicenda se lo girano, lo voltano, lo piegano e lo aggirano, e il popolo ignorante tutto vede e pur ci crede. Guarda quei corvi neri appollaiati che van gridando contro gli altrui peccati, minacciando ruine e distruzioni come padroni. E poi chi nell'autor, se senti frati, è Dio che li castiga dai peccati. Tutto s'addossa sulle spalle mie, anche le spie». E Pietro allor: «Signor, non v'affliggete, di tanti mali la cagion non siete, sono i principi, i frati, i preti, il papa, teste di rapa». Tu ti credi meglio di me, ma dalle nostre parti se uno non vuole morire di fame o fa il prete o fa il bandito. Tu hai scelto la tua strada, io ho scelto la mia. È la mia la più dura. Tu parli di padre e di madre, ma quando te ne sei andato a fare il frate io sono rimasto. Avevo 10-12 anni, c'era da sgobbare e io l'ho fatto. E sapevo che era inutile. E adesso sai cosa ti dico? Tu ti sei fatto frate solo perché sei troppo vigliacco per fare quello che faccio io. Sono cattolico, peggio catto comunista, ho una ferrea morale da perfetto qualunquista. Il padre mi ha insegnato che ci vuole fede. Sono una pecora nel gregge del Signore. Non devo mai usare l'anticoncezionale. Avrò famiglia, figli e una moglie che non compie atti impuri. Cucina pranzo e cena con perfetta dedizione. Fedele come un cane con il suo padrone. Potrò smarrire ogni tanto l'indirizzo. Uscire in strada e concedermi giudizio. Eva la mela, profumo del peccato. Confessionale, pentimento e assoluzione previo pagamento. In nomine Patri, Figli e Spiriti Santi. In nomine Patri, Figli e Spiriti Santi. 666, l'assassino più punito nei secoli, dall'ombra della croce alla fiamma inquisitoria, solo sete di potere la tua gloria, nei secoli dei secoli, e così sia, nei secoli dei secoli, e così via, nei secoli dei secoli, e così sia, nei secoli dei secoli, e così via, dal calice del vino solo sangue fuori uscito, ma non tuo certo, tu non l'hai versato, il prezzo del peccato va sempre pagato, sì, solo ignoranza prete, prezzo di mercato, in ogni piazza, in ogni chiesa, sei quasi un santo pusher, vendi indulgenza e la rinfusa, e non c'è scusa, non c'è pietà, per chi supporta quotando ovvietà. In nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti. La prego sua santità, l'AIDS nel mondo è un problema di castità, e se il preservativo è un aborto preventivo che condanna spada tratta una vita che si arresta, propongo un cappio per il collo che sostenga la sua testa, un'accetta per le idee, un bavaglio per la bocca, una crociata senza alcun senso che ha ucciso e sta ancora uccidendo, una crociata senza alcun senso, altro che quinto comandamento. Nei secoli dei secoli, e così sia, nei secoli dei secoli, e così via, nei secoli dei secoli, e così sia, nei secoli dei secoli, e così via. In nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti, in nomine Patris, Figli e Spiritus Sancti. Spiriti santi, nei secoli dei secoli, e così via. In nomine Patris, Figli e Spiriti santi, nei secoli dei secoli, e così via. In nomine Patris, Figli e Spiriti santi, nei secoli dei secoli, e così via. In nomine Patris, Figli e Spiriti santi, nei secoli dei secoli, e così via. Nei secoli dei secoli, e così sia. Don Tommasino, chi può aver dato l'ordine per quel massacro? E mantenere il contratto con il Vaticano. Solo Lucchese, un uomo tra due monti. Le nostre navi dovranno navigare nella stessa direzione. Gli italiani hanno avuto questi politici per secoli. Sono loro, la vera mafia. L'arcivescovo e la Banca Vaticana, questi sono i problemi. È lo stesso problema. Picè, sono collegati. L'arcivescovo ha amici molto potenti. Ha delle grosse protezioni. Tu conosci qualcuno nella Chiesa che ci possa aiutare e che sia onesto? O cardinale Lamberto. Ecco un altro anticristo, ma eri solo carino. proprio carino, pigro di testa e ben vestito, senza blu jeans, eri in carino, proprio un amore di ragazzino. Vede, io prendo i 14 documenti che contano e li allego alla mia istanza. E quelli provano tutto, tutto. Sulla chiesa, sui vescovi, sul cardinale Lowe. Ed è tutto pubblico. Perché la sua istanza che si oppone a quella di Rogers è pubblica. Sì, esatto. Ora ci capiamo. Perciò io potrei anche entrare in tribunale adesso e prendermi quei documenti. No, non può farlo. Perché quei documenti lì non ci sono. Ma ha detto che sono pubblici. So che l'ho detto. Ma questa è Boston. E la chiesa non vuole che i documenti si trovino. Quindi, lì non ci sono. Mitch, lei mi sta dicendo che la Chiesa Cattolica ha rimosso degli atti giudiziari da un tribunale? Senta, io non sono pazzo, non sono paranoico, ma l'ho toccato con mano. Guardi le cause a ruolo, vedrà. Controllano tutto. Ammonio, ma Dio ti parla? Continuamente. Ammonio questo, ammonio quello. Ammonio, ammonio, ammonio. Oggi mi ha parlato così velocemente che ho dovuto chiedergli di rallentare. Dimmi una cosa. Non pensi che stiamo sbagliando? Perché? Io sono stato perdonato. Ma ora non riesco a perdonare. Perdonare? Chi? Gli ebrei? Gesù li ha perdonati sulla croce. Gesù era Dio. E solo Lui può mostrarsi tanto clemente. Come osi paragonare te stesso a Dio?

nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore. E dal nostro prefetto ha accettato Cristo. Perché il resto di voi non lo fa? È solo questione di tempo e lo sapete. Davvero? È soltanto una questione di tempo? Allora, scusatemi, onorevoli dignitari, ma per quanto mi risulta il vostro Dio non ha ancora dimostrato di essere più giusto o più pietoso dei suoi predecessori. Signora! È davvero solo questione di tempo prima che io accetti la vostra fede? E perché allora questa assemblea deve accettare il consiglio di qualcuno che non crede per sua ammissione assolutamente in niente? Io credo nella filosofia. La filosofia. Proprio quello che ci serve in tempi come questi. Ora basta! Questa è una canzone d'amore costellata di sospiri e baci teneri, tenere parole. Questa è una canzone d'amore con le rime al posto giusto, cuore, tremore, fuoco eterno, rosso inferno! Sorrisi inquietanti, reca culo in poltrono, sciacalli d'assalto, che se poi crepano puoi solo gioire, ma questa è solo una canzone d'amore, e faccia a faccia.